Thank you.

E poi quel buon correndo a

a quell'uomo vedesti il suo nome. Non amendo. Vicino prova, sforzati, cerca. Cerca, cerca. Non trovo. Cerca. Rimase. Sciocco, e sottile non è il mio cuore, forse. Un giorno di Natale, un'ora sola, solo, proloco con galluto. Seguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. L'ombre si sono riunite. L'ho preso. Signora. Vecchi amici di Russia ed ecco un reggente.

Ebbene, sì, lo uccisi. Grazie. Fra un'ora.